Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, qui dal Groove Master Studio di Radio 24 per la prova del suono di Radio 24. E buonasera al nostro Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Sì, lo so, sei deluso perché ti saresti aspettato una puntata piena di musicisti per i festeggiamenti del caso, no? Sì, belle ragazze magari. No, assolutamente no. Infatti dispiace un po' anche a me, però i festeggiamenti li ho fatti ieri sera. Mi sono esibito, abbiamo fatto un bel concerto con tutti gli amici, Alfonso De Ida, Sebi Burgio, fratello Joseph Bassi, Dario Panza, c'era anche Carolina Bubico, ci siamo molto divertiti. E invece questa sera siamo da soli a festeggiare. Che cosa? Il tuo compleanno. Ecco, il mio compleanno. Prima di andare avanti però, tanti auguri a te. Ecco, questa te la potevi risparmiare, tanti Tromba, perché uno, non sei tanto intonato, questo lo sai, ah no? Beh, sì, e poi non sei Marilyn Monroe che fa gli auguri al presidente. Vero? Sì. Pure con quella barba. Te la potresti fare la barba, perlomeno il giorno del mio compleanno, no? Provvederò a tagliare dopo, dai. Intanto grazie a tutti gli amici che stanno continuando a inviare messaggi con gli auguri. La cosa mi fa molto piacere. Se fossi riuscito a mettere su una band con tutti gli amici musicisti e artisti che mi hanno fatto gli auguri oggi, non so per quante giornate saremmo riusciti a suonare. Beh, ma basterebbe anche la metà degli Beh, amici anche la musicisti. Metà per fare un bellissimo concerto, sì. Cosa che abbiamo fatto anche ieri sera. E comunque, pur non avendo oggi musicisti nel nostro studio, mio caro Francesco, ho pensato bene di regalare agli appassionati di musica di Radio 24 quella che è stata la mia colonna sonora, insomma, in tutti questi anni, un po' la musica con la quale sono cresciuto, quella che sentivo a casa con papà e mamma e quella con la quale poi mi sono formato da musicista e da uomo. Quindi già una buona metà di questa scaletta è merito di tuo padre, di tua madre. Assolutamente sì, perché fortunatamente io ringrazio papà per avermi fatto ascoltare certe cose, avermi fatto conoscere certi artisti e certi dischi che allora erano in vinile. Poi per altre cose un po' me la sono presa con lui. Se mi avesse fatto ascoltare un altro genere di musica, forse non avrei avuto questa mentalità che in qualche modo ha limitato il mio raggio d'azione. È un po' troppo purista, integralista. Mio padre, assolutamente un integralista del jazz, lo sappiamo, più volte è venuto nostro ospite. Sì, no? Infatti. Allora, sì, oggi ci deliziamo ascoltando brani con i quali io mi sono proprio formato musicalmente, brani con i quali io sono cresciuto, artisti con i quali sono cresciuto e alcuni dei quali poi ho anche incontrato e conosciuto, e questa è stata una bella cosa. Sì, infatti ti invidio tantissimo per aver conosciuto tanti artisti che purtroppo in alcuni casi non ci sono più. Ecco, i due signori che vi facciamo ascoltare subito io non li ho conosciuti, però andai a vedere il concerto di Ella Fitzgerald a Milano. Avevo preso la patente da poco più di un anno e nella mia prima automobile, ovvero era una Fiat 127 Panorama color carta da zucchero, diesel, forse uno dei primi diesel di quella cilindrata, era un 1.3, mi avviai da Roma per andare a Milano a vedere il concerto. Ricordo di aver dormito pochissimo quella notte dopo il concerto per l'emozione e poi ritornai a casa, e quando tornai a casa avevo la febbre. Addirittura. Sì, un viaggio andata e ritorno su Milano così. Era la febbre per la musica che hai ascoltato. Forse per la musica, certamente una grande emozione vedere Ella Fitzgerald proprio lì in carne e ossa sul palco con il suo trio a cantare tutti gli standard. Me lo ricordo, un concerto meraviglioso. Ella Fitzgerald qui con un altro campione di musica, no? The sì. King of Jazz, Louis Armstrong, uno dei pochi eroi positivi della storia del jazz, anche eccellente cantante, al di là del timbro vocale che è unico. Sì, ma guardando le copertine di tutti i dischi che hanno fatto insieme non viene viene assolutamente voglia di abbracciarli entrambi, sono i nonni che tutti avremmo desiderato. Mamma mia, immagina. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, una registrazione che ha fatto la storia del jazz. Hanno fatto due dischi insieme. Ella e Louis, Louis Again. Il brano è Stompin' at the Savoy, un super standard del jazz. E qui sono proprio campioni del mondo, Nobel per la pace, non si sa, qualsiasi beatificazione in atto. Beh, scesi in terra. Sì. E sì, oggi siamo solitari nel Groovemaster Studio, non abbiamo i musicisti, ma ci siamo regalati una colonna sonora unica nel suo genere. Non so in quante radio in questo momento nel mondo, non dico in Italia lo so che non c'è nessuno che sta suonando in questo momento certe cose, ma anche nel mondo. Ormai è difficile nella radio quella in FM, anche perché la radio in FM, lo abbiamo detto più volte insieme a Francesco Tromba, leggendo le varie indagini statistiche, ormai sta sfumando. E invece si utilizza moltissimo il podcast, quindi internet, la radio in internet, soprattutto se si vuole suonare o se si vuole ascoltare un certo tipo di repertorio. Beh, anche perché in tanti casi la buona musica spesso è stata relegata nei programmi notturni, almeno in Italia. Invece noi abbiamo questa fortuna di poter regalare agli appassionati di musica un repertorio che appartiene alla discografia immortale. Giusto? Sì, assolutamente dei monumenti veri e propri. Allora qualcuno si lamenta, dice, ma ogni tanto potresti suonare qualcosa di più rock, progressive e altre cose. Ma scusate amici, io suono quello che mi piace, no? E soprattutto quello che conosco, cerco di essere sincero con la mia proposta discografica e musicale. Eh sì, ognuno praticamente esprime nel tuo esprime caso se quello stesso, che esprime, sei. Esprime, sì. Esatto. Allora, io torno a proporre The Voice in persona, perché anche questo era uno dei dischi preferiti di papà. E papà, appassionato non tanto di Frank Sinatra, certo, che gli vuoi dire a Frank Sinatra? Sì, era perfetto dal punto di vista La voce tecnico. Perfetta e anche una pronuncia perfetta. Quando si va a studiare canto negli Stati Uniti, due sono i punti di riferimento per la pronuncia dell'inglese perfetto, e sono Ella Fitzgerald e Frank Sinatra. Ella Fitzgerald l'abbiamo ascoltata, adesso ascoltiamo anche Frank Sinatra e siamo a posto. E questo disco è meraviglioso perché a supportare The Voice c'è la big band di Count Basie, il brano, un altro classico, I Won't Dance, al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica, di Gegé Telesforo. La versione originale di Who Should Be Doobie Who di Dizzy Gillespie con The Double Six of Paris, brano che poi anch'io ho recuperato nel periodo The Paparazzi, con i primi dischi di Ben Sidran per la sua Go Jazz. Brano molto divertente, una classica canzone d'amore in stile bebop, praticamente per dichiarare il proprio amore alla fidanzata, alla spasimante, non si diceva I love you ma Who Should Be Doobie Who. E qui arriva al primo momento invidia, perché infatti tu hai conosciuto Dizzy Gillespie anche molto bene, mi raccontavi l'altro giorno un aneddoto, non so se lo possiamo raccontare qui in radio. Cioè, che cosa? Che quando io nascevo nel 1987 tu già ti eri fumato la prima canna con Dizzy Gillespie. Vabbè, insomma, no, la verità non mi è capitato con Dizzy Gillespie, no? Però Dizzy Gillespie mi fece proprio la richiesta specifica, perché arrivò negli studi della Rai quando avevamo la produzione di Doc in atto, e io naturalmente da giovane musicista, conduttore e appassionato di musica, quando mi ritrovai di fronte a questo monumento gli chiesi se aveva bisogno di qualcosa, se potevo fare qualcosa per lui, quindi oltre a illustrargli l'andamento della trasmissione, a spiegargli la scaletta e a proporgli le domande che poi gli avrei fatto in diretta, gli chiesi se aveva bisogno di qualcosa. E lui cosa lui ti chiese? Oh yeah man, I need a joint. Voleva un joint, e poi insomma qualcuno riuscì a procurarglielo e lui rimase anche abbastanza contento. Un grandissimo personaggio, un pezzo di storia vera e propria della musica, un personaggio positivo. Ma certamente un personaggio positivo che ha fatto del bene alla musica, inventore di musica, innovatore sul suo strumento, sulla tromba, e anche un divulgatore di musica, perché poi è stato uno dei primi a coniugare lo swing, il bebop per esempio, con i ritmi latini e la musica della salsa, musica cubana, della quale lui era appassionato, e scrisse anche un sacco di brani su quello stile. E tra l'altro, dopo i concerti a Cuba con la Big Band, fece anche espatriare di nascosto un altro grandissimo musicista, che allora era giovanissimo, era Arturo Sandoval. La sapevi questa cosa? No, mi mancava. È stato fatto cosa. Anche un film sulla storia di Arturo Sandoval, che scappa da Cuba per diventare un musicista di jazz vero e proprio insieme all'orchestra di Dizzy Gillespie. Who should be dooby Gillespie con The Double Six of Paris, per andare a altri campioni di vocalità e di musica. E io di questo signore sono sempre stato proprio un fan accanito, innamorato, finché poi non l'ho incontrato, ho fatto dischi con lui, concerti e anche tante risate. Molto simpatico, molto intelligente, molto preparato, un vero intellettuale della musica, il grande maestro John Hendrix. Però non ti ha mai rivelato i suoi segreti? Mai, assolutamente no. Io mi ricordo che dopo le registrazioni allo Skyline a Broadway, questo bellissimo studio di registrazione dove hanno lavorato da Scofield, Brecker Brothers, Pat Metheny, insomma tutti, dove lavorava James Farber, uno dei migliori ingegneri del suono del jazz, dopo questa giornata in studio andai a cena con John Hendrix e gli chiesi se il giorno dopo, avendo una giornata di day off, poteva darmi delle lezioni, potevo fare una sorta di masterclass. E lui mi disse: sei pazzo, che pensi che io ti debba raccontare tutti i miei segreti? E ci rimasi anche un po' male, però quella è stata una lezione, perché mi disse: tu, stiamo lavorando insieme, stiamo registrando, ascolta, guarda quello che faccio, fallo tuo e rifallo come piace a te. Sei tu che devi imparare da me. Sei tu che... bravo, e questo è vero, non sono io che devo insegnarti nulla, sei tu che devi imparare, ricordatelo Francesco. Me lo segno. Anch'io me lo sono segnato e me lo continuo a scrivere. Dunque qui John Hendrix, Dave Lambert e Annie Ross, trio vocale per eccellenza della storia del jazz, in un classico dell'hard bop. Questa è una composizione scritta dal pianista Horace Silver, un blues minore intitolato Come On Home. John Hendrix, Lambert e Ross al soundcheck di Radio 24, e questo qua si può impazzire. Tanti auguri GG ancora. Soundcheck, il suono della musica. Un altro standard immortale come There Will Never Be Another You, e un'altra voce immortale così come il suono della sua tromba, Chet Baker al soundcheck di Radio 24 in questa giornata con la quale stiamo ascoltando parte, ecco, solo una parte della colonna sonora della mia vita, proprio per festeggiare il mio compleanno. Ecco, l'ho ripetuto questa tanti volta. Auguri ancora. Grazie Francesco. E tra l'altro questo pezzo fa parte di una colonna sonora di un film che originariamente si intitolava Iceland, però è stato tradotto in italiano Tra le nevi sarò tua. Tra le nevi sarò tua, sì. Titolo proprio italiano. E di che anno era? Erano gli anni 42. 42, invece questa registrazione di Chet Baker è più recente, metà degli anni 50, e anche lui è un campione di musica che ho avuto la fortuna di incontrare e di conoscere. La prima volta credo di averlo visto dal vivo già con le pantofole, perché negli ultimi anni, ma insomma già 20 anni prima della sua scomparsa, già suonava con le pantofole perché aveva i piedi gonfi, no? Di alcol e droga. Al Music Inn di Roma, un club che ha fatto la storia nella nostra capitale, con Pepito e Picchi Pignatelli che gestivano questo club bellissimo, e lì vidi Chet Baker. Non ricordo, ricordo un aneddoto, ero con papà a Roma, forse avrò avuto 15-16 anni, e andammo a vedere Chet Baker, e ricordo che Chet Baker cacciò il batterista. E chiamò un batterista e dalla sala si presentò qualcuno. Devo dire che papà mi disse: vai tu, perché allora strimpellavo la batteria, però certamente ero terrorizzato, no, di suonare con Chet Baker e di suonare in trasferta. Beh, una anche città perché... come Roma. Fatto sta che fu sostituito il batterista, che forse faceva troppo casino, dava fastidio, a Chet Baker non piaceva, e salì qualcuno, non so chi, non posso ricordare. Ma queste erano cose che succedevano con Chet Baker. musicista di grandissima sensibilità, peccato però che ha avuto una vita travagliata, insomma dispiace per lui. Sì, peccato perché ci avrebbe magari regalato ancora tanti anni di bella musica e di gran bei dischi. Esatto, e poi lo incontrai perché anche lui è stato uno dei protagonisti di quella bellissima trasmissione televisiva chiamata Doc. E allora chiudiamo la prima parte di questo soundcheck di questo 14 ottobre con un altro classico del jazz contemporaneo. Ma che musica stiamo ascoltando? Cioè veramente non è tutta così. Questa è la fila. Musica che io ho ascoltato da ragazzo, cioè parte della musica. Oggi possiamo suonare solo 13 brani, però insomma. Dove lo trovi un programma che mette insieme tutta questa Bravo, musica? Bravo, tromba! Insieme. Oh, finalmente detto una cosa giusta. Allora, Herbie Hancock qui con Cantaloupe Island. Che gli vuoi dire a questo brano? Beh, che è un grande Herbie Hancock, anche se ha una certa età, ancora oggi è un maestro di livelli maestro assoluti. Hai letto l'autobiografia? Ancora no, ho iniziato a leggerla ma non l'ho finita. Io l'ho letta l'autobiografia, ci sono molte cose interessanti. Cantaloupe Island è un brano scritto e registrato da Herbie Hancock nel 1964, nel periodo proprio subito dopo la fase con il quintetto di Miles Davis. Herbie Hancock mise su la sua formazione e per realizzare l'album che conteneva anche Cantaloupe Island convocò Freddie Hubbard alla tromba, diciamo un ragazzetto così passava di lì, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams, che era giovanissimo, avrà avuto 22-23 anni, forse qualcosa di meno. Bene, eccolo qui Herbie Hancock, poi pausa, arriva l'informazione di Radio 24 e poi ci sono altre cosine. Tanta altra musica fantastica. Soundcheck, il suono della musica. Seconda parte del soundcheck di Radio 24, qui dal Groove Master Studio insieme a Francesco Tromba, e ci stiamo raccontando perché oggi, sì, lo dico a denti stretti, è il giorno fai del mio quanti compleanno. Anni fai? Quanti ne faccio anni parecchi, fa? Dai, è facile, si va su Wikipedia e si può andare a controllare, ne faccio parecchi. Tanti, no, alla fine non ne dimostri ma così. Ma no, tanti. Dai, mi sono divertito e continuerò a farlo. Sto sforzando per essere allegro. La musica però ti aiuta ad essere mi aiuta più molto, giovane. Mi aiuta molto. Ieri sera, lo abbiamo detto, l'ho già detto, ho fatto un bellissimo concerto, mi sono divertito tantissimo. Oggi invece ci divertiamo ad ascoltare musica che in questo momento credo che è in airplay, forse in quanti altri programmi, forse in Giappone. Forse sì, in forse Giappone qualcosa. Anche in qualche web radio. Sì. Non di più facile nelle allora parole. Abbiamo ascoltato nella prima parte sonorità molto jazz perché quella è la musica con la quale io mi sono formato, fino a quando un giorno non incontrai The Godfather of Soul e lì rimasi proprio a bocca aperta quando ascoltai il doppio live Sex Machine. Niente, lì fu proprio una folgorazione. James Brown è veramente una trambata in faccia. Sì, è vero, proprio una bastonata. Sì. Guarda, perché nella musica di James Brown ritrovavo tutto quello che avevo ascoltato, quindi c'è il blues, c'è la matrice, c'è la componente jazz, c'è l'improvvisazione fatta sul groove, quindi dallo swing ormai il mio interesse si stava spostando su quello che poi capì era il groove, la forza del groove, e James Brown è stato senz'altro un inventore. Leggendo l'autobiografia lui racconta proprio esattamente il momento in cui capì che doveva spostare l'accento proprio nella costruzione della musica, delle composizioni, ritmicamente parlando, dalla pulsazione swing a quella proprio dell'uno, la potenza dell'uno, dice il colpo di cassa sull'uno, e quindi mise tutto straight proprio con i sedicesimi, e lì viene tutta la potenza di Sex Machine e di tutti i brani che ha registrato poi dalla fine degli anni 50, primi anni 60 in poi. E poi trovando anche i musicisti giusti è riuscito veramente a costruire una carriera ed innovare la musica. Beh, in musicisti maniera pazzeschi, da Bootsy Collins al basso aveva i due batteristi strepitosi, Clyde Stubblefield e John Jabbo Starks, cioè aveva due batteristi sul palco di quella potenza e di quella forza. Cioè, pensa tu che cos'era andare ai concerti di James Brown. E poi aveva dei solisti eccellenti. Nella seconda parte della band, alla metà degli anni 70, c'era Maceo O'Parker al contralto, Fred Wesley al trombone, che è ancora in attività. Anche Maceo O'Parker sta ancora facendo concerti in tutto il mondo con una super band. Posso farti una domanda? Sì. Cosa invidi di più in assoluto di James Brown? La cosa che gli invidi di più? Beh, invidio proprio il fatto di essere James Brown, ma anche il nome invidio. Anche il nome. Tu pensa già, ladies and gentlemen, the Godfather soul, James Brown. Giacomo Marrone. Vabbè, non fa niente, però senti, è James Brown, sì, suona benissimo. Non viene come Francesco Tromba, figura, J.J. Telesfa, già, non suona già nello stesso modo, già il nome, James Brown, va alla grande, ma poi che gli vuoi dire? Un ballerino fantastico, uno showman incredibile, no? E c'era tutta la, vedi, continuano ad arrivare messaggi, fammi chiamate, chiudere qui, auguri. Sì, chiamate, auguri. Va bene, io direi di andare con James Brown con Soul Power, che dici? Sì, ce lo meritiamo. Iniziamo a ballare, dai. Soul Power, James Brown. Soundcheck, il suono della musica. Beh, ti devo ringraziare, Gigi, perché veramente ci stai facendo tu il regalo di compleanno, perché è una selezione musicale fantastica, un brano più bello dell'altro. September, Earth, Wind and Fire, che band, ragazzi, ma questa pure è stata una band rivoluzionaria. Sì, hanno veramente spostato il livello della storia della musica più avanti. Assolutamente, della black music. Sì. Bisogna soltanto pensare che Maurice White, il leader degli Earth, Wind & Fire, fondò la band insieme al pianista Ramsey Lewis, che poi invece fece la sua carriera da solista. E Maurice White, per un certo periodo della sua carriera, che è stato un bravissimo batterista di jazz, ha anche accompagnato John Coltrane. Addirittura. Ha suonato con John Coltrane in un periodo in cui Elvin Jones era assente. E quindi immagino un musicista con quel tipo di formazione che mette su una band potentissima, carica di soul, che puntava su una sonorità contemporanea. C'era molta Africa nella musica degli Earth, Wind & Fire, c'era molto groove di James Brown, ma con arrangiamenti comunque di una finezza meravigliosa, e poi composizioni belle, no? Sì, una qualità altissima che comunque poi è anche stata premiata dal pubblico, arrivando nelle classifiche di tutto il mondo ai primi posti. È vero, è September, che è uno dei grandi successi degli Earth, Wind & Fire, è proprio una composizione che fu pubblicata nel 1978 ed è presente in un album intitolato The Best of Earth, Wind & Fire, cioè prima non era stata pubblicata, direttamente nel The Best l'hanno messa, sapevano già che sarebbe diventato un super classico. Earth, Wind & Fire al soundcheck di Radio 24, dove arriva un altro campione, e anche qui Stevie Wonder io non l'ho mai incontrato, però andai a vederlo in concerto, l'ho visto un paio di volte dal vivo. E cosa mi dici del suo concerto? Ho pianto, si piange dall'inizio, dall'inizio alla fine. Per invidia? No, non per invidia, proprio perché ti commuovi, perché lì capisci che c'è qualcosa di più. Di soprannaturale. Sì, non c'è lo studio, c'è qualcosa di speciale, c'è proprio della magia, sì, ma insomma la voce, come canta, come suona l'armonica a bocca, il pianoforte, le composizioni, quante canzoni belle ha scritto Stevie Wonder, ha fatto innamorare intere generazioni e continuerà a farlo, secondo me. Beh, un artista immortale, assolutamente immortale, come immortale è questa sua canzone che non è una delle più famose, cioè, o perlomeno una delle composizioni che hanno portato Stevie Wonder ai massimi livelli di esposizione, però da un punto di vista musicale è una delle più interessanti. Il brano si intitola Living for the City, brano tratto dall'album Inner Visions del 1973, che era proprio l'album nel quale si ritrovava anche Don't You Worry About a Thing. Tra l'altro questa canzone è inserita nelle 500 migliori canzoni della storia. Ecco. Soundcheck, il suono della musica. DJ Telesforo. Sì, ci siamo regalati, questo è il regalo che mi sono fatto e che credo di fare anche a tutti gli appassionati di grande musica, a tutti i fedeli radioascoltatori del soundcheck di Radio 24, un regalo che ci siamo concessi, ovvero un airplay strepitoso, diciamo la verità. Sì, fantastico veramente, cioè dove lo trovi una selezione musicale così, dove un brano è più bello dell'altro, ogni volta che l'ascolti dici no, questo è il brano più bello che ascoltiamo. E invece andiamo avanti, purtroppo soltanto pochi brani, potevamo stare qui tutta la notte. Magari. È vero, eh? Ad ascoltare musica, che è una cosa che facciamo spesso. Sì, sì. Allora, qui, le voci sono riconoscibili, no? Al Jarreau e George Benson. Al Jarreau e George Benson insieme, grandi amici e anche loro degli innovatori nello stile vocale, per la musica e per il modo e l'approccio con cui hanno utilizzato la loro vocalità. Stili diversi, ma assolutamente compatibili. Degli artisti assolutamente fantastici, anche in questo caso. Al Jarreau, un innovatore per tanti motivi, un cantante super ritmico, a parte che sul palco reggeva benissimo la scena, era molto simpatico, molto divertente, ed è un musicista, forse uno dei pochi musicisti che ha vinto Grammy Award in diverse categorie, dal jazz oppure rhythm blues, soul music, nel pop, ha vinto di tutto Al Jarreau. Anche lui bravissimo compositore, autore di testi e poi un cantante eccellente. Forse è stato tra i primi a rendere realmente l'eliminazione totale del confine dei generi nella musica. Esatto, e cosa che poi ha fatto anche George Benson, che ha iniziato la sua carriera come chitarrista suonando negli album del trombettista Lee Morgan, per poi diventare un solista eccellente, e anche lui il merito di aver spostato l'attenzione dal repertorio più jazz e blues a quello più soul e funk, utilizzando la sua vocalità anche per la sua voce bellissima, anche per doppiare gli assoli di chitarra, e quello è stato proprio un must di George Benson, ci mise proprio la firma. È un punto per cui va riconosciuto, si riconosce immediatamente appena l'ascolti. È vero, è proprio così. Il brano era Don't Start No Stuff, in un album che ripropone proprio l'arte e il talento di Al Jarreau e George Benson insieme. E adesso un altro campione di musica. Sì, e qui invece un altro dei nostri preferiti. Dei nostri preferiti, purtroppo scomparso ormai che sono passati 2 anni. Sì, 2 anni. Un paio di anni. E mi manca tantissimo Prince. Poi una scomparsa improvvisa in questo modo. Cioè, ancora secondo me aveva molto da dare. Molto da dare. Chissà quanta musica è nascosta nei suoi hard disk. Nei suoi archivi. Faranno una marea di dischi. Bene, il principe di Minneapolis torna al soundcheck di Radio 24. Anche questa volta il brano non è uno di quelli da classifica. No, però a noi piace tantissimo. Però è un brano proprio che suona da soundcheck. Sì. Eccolo qui, Muse to the Pharaoh, Prince al soundcheck. Soundcheck di Gege Telesforo. E lui rappresenta l'evoluzione della black music. Abbiamo parlato di quanto è stato importante James Brown, di quanto è stato importante Prince, e questo signore ha immagazzinato tutte queste informazioni per creare il suo stile, il suo genere e diventare un campione di black music. Si chiama D'Angelo il brano. Ormai è diventato anche questo un classico del suo repertorio, intitolato Sugar Daddy, qui al Soundcheck di Radio 24, e stiamo per chiudere questa puntata praticamente con la colonna sonora della mia vita. Sì, parte della colonna sonora. Tanti auguri ancora. Grazie Francesco. E secondo te che cosa lega D'Angelo a Dario De Idda? È che entrambi hanno fatto un nuovo disco dopo 14 anni di silenzio. Bravo, e proprio oggi, e perché adesso suono Dario De Idda? Perché proprio oggi pubblichiamo il nuovo album del meraviglioso Dario De Idda, intitolato My Favorite Strings. Esce oggi, anzi è già presente su iTunes, e quindi tutti coloro che l'avevano acquistato in prevendita se lo ritrovano nei loro smartphone, iPad e sui computer, e chi ancora non l'avesse comprato comprato, ha la possibilità adesso di capire di cosa stiamo parlando. Beh, Dario ti ha fatto il regalo di compleanno praticamente. E mi ha fatto il regalo di compleanno e mi ha dato anche la gioia di lavorare anche in questa produzione con quello che io considero il miglior bassista elettrico al mondo. Tutti parlano di Marcus Miller, Victor Buten, però insomma quando poi ascolti Dario De Idda capisci che questo musicista non ha limiti. Beh, se avesse più voglia di viaggiare probabilmente sarebbe ancora più famoso e sarebbe veramente... Ma questa cosa non mi dispiace. Questa cosa non, no, esatto, questa cosa però non mi dispiace, no? Il fatto di sapere che abbiamo un musicista italiano che è cult in tutto il mondo e che non vuole muoversi perché è legato alla mozzarella di bufala, alle vongole e ai sapori e gli odori della sua terra, che è una cosa bella. Cosa fantastica, molto romantica. Ebbene sì, Dario De Idda è fuori con il nuovo album intitolato My Favorite Strings, dal quale vi facciamo ascoltare questa sua versione di Freedom Jazz Dance. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani a partire dalle 19:15 sempre qui su Radio 24. A tutti voi buona serata e buona musica da Gege Telesforo. Tanti auguri a Gege Telesforo, un saluto da Francesco Tromba. Grazie, ciao.